E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel suo ultimo articolo, Monsignor Alessandro Maggiolini, il vescovo emerito di Como scomparso martedì scorso, affronta il tema del valore della vita. Sfogliamo il Nuovo Testamento. Dio ha stabilito che ogni uomo muoia, e allora dovrà rendere conto del bene e del male compiuto. Non vi è eccezione. Il destino di ciascuno è quello di vedersi troncare la libertà di decidere il proprio destino e di lasciare che il Signore tragga le conseguenze del proprio amore accettato o rifiutato. Mi metto sul bordo di Viale Certosa, quello che porta al cimitero comunale. Motori che rombano e sfrecciano nel traffico cittadino, gonne variopinte al vento, perché la vita è bella. Questo è il ritornello, e bisogna spremerla fino alla feccia del piacere. E accanto, lemme lemme e silenzioso, passa il carro funebre, per di più mascherato da automobile civile, poiché sembra che ci si sia accordati per non pensare e alludere mai alla morte. E se nei discorsi comuni cade il tema, appare subito una sgarbatezza. Siamo eterni? Mi torna alla mente la novella di Pirandello, dove il conduttore del carro funebre ha lasciato il mestiere del cocchiere civile e, per l'abitudine che ha, si avvicina al marciapiede dove un signore impettito cammina verso l'ignoto e si sente invitare. «Signore, vuol salire? C'è posto?» Non c'è bisogno di molti ragionamenti. La vita, lunga o breve che sia, viene spezzata. E che cosa ci attende dopo? E perché questa cesura, violenta o dolce, che pone fine alla nostra libertà, o meglio, che libera o imprigiona la nostra libertà? Già, poiché si può anche fingere per tutta la vita di giocare al girotondo dei giorni e degli anni, ma la vita non è un cerchio che ritorna monotonamente su se stessa, è un vettore, se si vuol parlare in termini scientifici, che ha un inizio e ha inevitabilmente un termine. Davvero si tratta di un termine? All'ultimo sospiro, che cosa succede? Si dà un annientamento della persona? Ma la persona è creata e redenta per l'eternità, per un'eternità che si rinnova ogni momento. Ed ecco l'interrogativo sul dopo, che aiuta a cogliere il senso del morire e del vivere che ne può seguire. È un pensiero che può rivelarsi angoscioso, quello di chi intuisce che esiste un termine a costruire il proprio destino in un dialogo di amore con Dio, che può essere accolto piangendo di commozione o rifiutato con rabbia irrivedibile. Ma come, in un tempo come il nostro, dove tutto sembra essere dominabile, ha ancor senso accennare, sia pur di striscio, o buttare in faccia alla gente il destino eterno di beatitudine o di dannazione? E l'uomo non è fatto per la felicità che gli spot pubblicitari presentano ossessivamente? E che senso ha il peccato in sé e nelle sue conseguenze, quando ciò significa il fallimento della persona? Ma si ponga che la vita terrestre non abbia una conclusione. La monotonia e la noia mortale non opprime i nostri giorni. Ricordo una pagina di Gratry, il quale, alla fine delle scuole secondarie, si interroga sul suo domani. Professore universitario, lavoratore della terra, poeta. E le domande che si ripresentano martellanti. E poi? Poi giunge un'ora di definitività e si prenderà coscienza di una solitudine disperata a cui si è votati, o di una gioia larga come il cielo e splendente, dove ci attende il Signore che ha voluto morire per noi e che, risorto, ci attende a braccia aperte, impaziente. Ecco il dramma della vita che non può essere cancellato come una banalità, né quando si è in chiesa, né quando si è al supermercato. Il Signore del cielo e della terra, l'amore senza limiti che si è lasciato affiggere alla croce per noi, ci attende. Uno può anche fingere che tutto ciò sia fola di ritorno da un medioevo terrificante, e invece non si è che davanti al mistero della libertà. Della libertà di chi stabilisce il proprio futuro e di chi non può impedire che Dio lo ami immisuratamente come vuole. Può tentare di dimenticare questo orizzonte di ambiguità, ma non può impedire che Dio ami. E Dio, nel Signore Gesù, attendi almeno una invocazione alla misericordia. Buona morte, che significa buona vita, poiché la gioia che ci attende ha le sue anticipazioni anche nel nostro povero e traballante calendario. San Tommaso parla della grazia di Dio come di prelibatio vitae eterne. C'è bisogno di tradurre. Expertus potest credere quid sit Iesum dirigere. C'è bisogno di tradurre. A partire da queste considerazioni, ci si può inoltrare nel mistero del male e della felicità, anche dell'attesa prima del paradiso, di cui ancora recentemente il Papa ha parlato nella sua splendida enciclica sulla speranza. Perché lasciare cadere questi testi di un professore universitario che si fa umile fedele e alunno della parola divina e fratello della sorte universale degli uomini? Certo, ci si può anche lamentare perché la Chiesa sembra aver paura di toccare questi temi del destino eterno e pare taccia per il timore di non essere accolta o per il desiderio di assecondare la direzione del vento della sciatta moda culturale di oggi, se si può parlare di cultura. Il fatto è che quando il Papa, con lucidità di mistico e con la semplicità del contadino che sale in cattedra, non dimentica la fatica di vivere, quando anche il Papa parla di questi argomenti, si volge l'attenzione ad altro. E invece, unica è la cosa necessaria nella vita. Chi ricorda il catechismo sa bene a quali verità si allude. I novissimi sono sempre certezze attuali e incidenti nella vita di ogni giorno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Monsignor Alessandro Maggiolini «La buona morte spiegata da un vescovo», pubblicato sul numero di novembre del mensile Il Timone. L'articolo è stato riproposto anche sul Riformista del 13 novembre. Letture di Radio 24. Sulle pagine di Repubblica, Roberto Saviano rende omaggio a Miriam Makeba, scomparsa domenica scorsa subito dopo essersi esibita a Castel Volturno in un concerto contro la camorra dedicato proprio all'autore di Gomorra. Cosa è il blues? Si chiede lo scrittore afroamericano Ralph Ellison. Il blues è quello che i neri hanno al posto della libertà. Dopo aver saputo della morte di Miriam Makeba, mi è subito venuta in mente questa frase. Mama Africa è stata ciò che per molti anni i sudafricani hanno avuto al posto della libertà. È stata la loro voce. Nel 1963 ha portato la propria testimonianza al Comitato contro l'Apartheid delle Nazioni Unite. Come risposta, il governo sudafricano ha messo al bando i suoi dischi e ha condannato Miriam all'esilio. 30 anni di esilio. Da quel momento la sua biografia si è fatta testimonianza di impegno politico e sociale, una vita itinerante, come la sua musica vietata. Nelle perquisizioni ai militanti del partito di Nelson Mandela vengono sequestrati i suoi dischi, considerati prova della loro attività sovversiva. Bastava possedere la sua voce per essere fermati dalla polizia bianca sudafricana. Ma la potenza delle sue note le conferisce la cittadinanza universale, fa diventare il Sudafrica terra di tutti, e soprattutto l'inferno dell'apartheid, un inferno che riguarda tutti. Negli anni 60, approdata negli Stati Uniti, Miriam Makeba si innamora di Stokely Carmichael, leader delle Pantere Nere, e i discografici in America le cancellano i contratti, perché Mama Africa non combatte con i mezzi della militanza politica, ma con la voce. E questo fa paura. Lei arriva alla gente attraverso la sua musica, attraverso successi mondiali come Pata Pata, che tutti ballano, che piacciono a tutti, con una forza dirompente e vitale che il governo dell'apartheid, come i razzisti di tutto il mondo, non sanno come arginare o combattere. Così, a 76 anni, è venuta a cantare persino in un posto che sembra dimenticato da Dio, dove persone solerti hanno organizzato un concerto per portare un po' di dignità a una terra in ginocchio. E l'altra sera mi hanno chiamato di notte. Checco, che aveva seguito l'organizzazione del concerto, mi ha detto che Miriam Makeba non si sentiva bene. «Ma la signora vuol cantare lo stesso. Vuole il tuo libro nell'edizione americana nel camerino. Robè, è tosta!» Quando mi avevano detto che Miriam Makeba aveva accettato di cantare a Castel Volturno nel concerto In mia vicinanza, che chiudeva gli stati generali della Scuola del Sud, al primo momento stentavo a crederci. Invece lei, che per anni aveva lottato e aveva viaggiato cantando per tutta l'Africa e il resto del mondo, voleva venire anche in questo angolo sperduto, dove quasi due mesi prima c'era stata una strage di 7 africani, che per lei erano africani, non ghanesi, ivoriani o del Togo. In questa idea panafricana che fu di Lumumba e che mai come oggi sembra per sempre purtroppo sepolta. Mama Africa si è esibita a pochi metri da dove hanno ammazzato l'imprenditore Domenico Novello, un morto innocente, nativo di queste terre, che invece è morto solo, senza partecipazione collettiva, rivolta, fratellanza. La morte di Miriam Makeba, venuta a portarmi la sua solidarietà e testimoniarla alla comunità africana ed italiana che resiste al potere dei clan, è stato per me un enorme dolore. Enorme come lo stupore con cui ho accolto la dimostrazione di passione e forza di una terra lontana come quella sudafricana, che già nei mesi passati mi aveva espresso la sua vicinanza attraverso l'arcivescovo Desmond Tutu. Invece, grazie alla loro storia, persone come Tutu o come Miriam Makeba sanno meglio di altri che è attraverso gli sguardi del mondo che è possibile risolvere le contraddizioni, attraverso l'attenzione e l'adesione, il sentirsi chiamati in causa anche per accadimenti molto lontani, e non con l'isolamento, con la noncuranza, con l'ignoranza reciproca. Il Sudafrica vive una pressione dei cartelli criminali enorme, ma i suoi intellettuali e artisti continuano a essere attenti, vitali e combattivi. Desmond Tutu stesso definì il Sudafrica Rainbow Nation, nazione arcobaleno, lanciando il sogno di una terra molto più varia e ricca e colorata di un semplice ribaltamento di potere fra bianco e nero. Miriam Makeba era e rimane la voce di quel sogno. Se c'è un conforto nella sua tragedia, si può dire che non è morta lontano, ma è morta vicina, vicina alla sua gente, tra gli africani della diaspora arrivati qui a migliaia e che hanno reso propri questi luoghi, lavorandoci, vivendoci, dormendo insieme, sopravvivendo nelle case abbandonate del villaggio Coppola, costruendoci dentro una loro realtà che viene chiamata Soweto d'Italia. È morta mentre cercava di abbattere un'altra township col mero suono potente della sua voce. Miriam Makeba è morta in Africa. Non l'Africa geografica, ma quella trasportata qui dalla sua gente, che si è mescolata a questa terra a cui pochi mesi fa ha insegnato la rabbia della dignità. E spero pure la rabbia della fratellanza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roberto Saviano, Miriam, morta nella mia Africa, da Repubblica del 12 novembre. In un network nazionale va in onda una sua imitazione e Michele Santoro non gradisce e scatta la querela. La TV è già abbastanza avvilente, ma le goffe e improbabili mosse di personaggi pubblici, siano ministri o anchormen politici di riconosciuta fama, spesso peggiorano la situazione. Come spesso gli capita, Berlusconi ha aperto una moda. Prima, specialmente in Rai, si epurava sotto traccia, senza chiassate c'erano esili lunghissimi, se non eterni. Se si esclude Grillo e la dissociazione in diretta di Baudo, prima dell'editto bulgaro non si stroncavano programmi e carriere con dichiarazioni di guerra pubbliche. Ora invece è il contrario. Le rubriche della critica televisiva potrebbero essere riempite da lettere legali o comunicati ministeriali. Andiamo con ordine. Nell'occhio del ciclone ci sono finiti Glob, lo sceno del villaggio, e Gio Violanti di Radio Dimensione Suono. A scanso di equivoci ci piacciono poco entrambi. Il primo è una satira innocua, che gioca di fioretto sul costume, programma medio, tendente alla mediocrità. Il secondo è un facile divertissement, senza infamia e senza lode, con un buon talento al microfono. Lunedì il ministro Bondi, abituato a sferzare con toni epici ed etici qualsiasi cosa urti la sua morale e soprattutto il suo moralismo, ha inveito contro Glob, definendolo ributtante. La colpa? Aver fatto una delle sue puntate migliori grazie a tre ospiti azzeccati. Bartezzaghi, che illustrava i cambiamenti, significativi nel vero senso della parola, avvenuti nel linguaggio politico. Cacciari, che illustrava il sesso come storico strumento di supremazia del maschio. Ilona Staller, che disquisiva di erotismo. Niente di sovversivo, ma abbastanza per contravvenire alla funzione di informazione ed elevazione civica e spirituale della RAI. Nelle stesse ore Michele Santoro diffidava e chiedeva i danni a Gio Violanti per l'imitazione radiofonica a lui dedicata. Non censura, ma furto d'identità che può nuocere al suo lavoro, la precisazione dell'avvocato del già epurato di Sofia, che nella sua riserva indiana ha invitato Guzzanti e tiene Vauro e le sue vignette. La gestione del dissenso sembra la stessa. L'uno scrive a Petruccioli, l'altro all'avvocato. Destra e sinistra ormai si specchiano nella loro permalosa identità di vedute, nelle ipocrisie, nelle tentazioni liberticide. E se Ruffini con calma ironia difende Globber ai tre dall'attacco, scommettiamo che RDS, realtà più piccola e quindi più danneggiabile, preferirà cancellare la performance. Ai Cesaroni direbbero che amarezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Boris Sollazzo, Ma tra Bondi e Santoro che differenza c'è, da Liberazione dell'11 novembre.